Bye.

dar foggia natura e ti dà la mia e passi se a papar che papar da Yeah, come on, I'll pull. Yeah. From down the valley,